con il comico Daniele Parisi per parlare del nuovo appuntamento di Sgombro, il numero 29, il varietà tragicomico in scena a Roma, Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 20 settembre 2019. Daniele, ben trovato. Eccoci, eccoci. Ripartiamo alla Si grande. riparte, prima data Prima stagionale. data, 20, pensa, 29ª edizione. Questa è la 29ª puntata di Sgombro. Quarto anno, resistiamo più dei governi. Noi resistiamo più di... siamo immortali. Noi immortali, veramente. Siamo, vedete, puntuali come le bollette. Ecco, arriviamo noi, una volta al mese, eccoci. Per chi non lo conoscesse, raccontiamo cos'è e come si sviluppa la formula in una serata. Allora, noi praticamente siamo un insieme di persone con dei disagi che cercano di camuffarli con l'ironia e ci incontriamo in questo luogo che a noi piace raccontarlo come una sorta di salotto surreale dal vivo. Qui ci sono vari performer, teatro canzone, teatro comico, scrittori, poeti. Praticamente c'è poi uno spettacolo che dura un'oretta e mezza massimo, in cui ognuno fa un pezzetto del proprio repertorio, cose nuove, cose inedite, più o meno 7-8 minuti a testa, e ci avvicendiamo uno dopo l'altro. È uno spettacolo che ormai sta avendo anche il suo pubblico, il suo seguito, e ci si diverte molto. Allora, come sarà la puntata 29? La puntata del 29 vedrà in parte lo zoccolo duro di Sgombro, che ci sono io, Gioia Salvatori, l'immancabile Ivan Talarico, forse arriverà anche Claudio Morici, Davide Grillo, Giovan Bartolo Botta, che si occupa di poesia, ad esempio, no? E poi ci saranno degli ospiti, però insomma io non voglio dire niente perché forse voglio mantenere un po' di mistero perché siamo in attesa di un ospite, però non lo posso dire perché non ci ha ancora dato la conferma. Se viene è bellissimo, Potrebbe se viene essere una meraviglioso. bella sorpresa, quindi. Potrebbe essere una bella sorpresa, però non lo dico perché dico se non viene, poi il pubblico ci resta malizio. Lo dico e non lo dico, perché è un mezzo visto, diciamo, via. Non lo dico perché se no poi dopo, ecco, hai detto che veniva. Quindi al momento siamo noi. Siamo noi. E poi ecco, insomma, io la cosa che mi auguro è che le cose possano continuare senza problemi. Siamo al nuovo Cinema Palazzo occupato, ci auguriamo tutti quanti di poter portare avanti fino alla fine la stagione in questo luogo meraviglioso. Le locandine, i manifesti sono delle opere d'arte. Da qualche anno ci avvaliamo dell'aiuto creativo di Maurizio Ceccato e queste locandine sono delle vere e proprie opere d'arte, secondo me, perché infatti sarebbe meraviglioso fare prima o poi una pagina mostra, perché sono veramente delle cose che i più curiosi possono andare a vedere sulla nostra pagina Facebook, che è appunto Sgombro il Varietà, dove potete vedere tutte le locandine che sono state fatte nel corso di questi anni, anche questa, e sono veramente delle raffigurazioni in parte surreali, in questo caso, che sono degli sgombri che escono fuori da una scatoletta, no? Ma sono profondamente suggestivi e si adattano perfettamente a quella che è la nostra poetica, che è un pochino appunto surreale. Quindi insomma, anche in questo, anche dal punto di vista visuale, cerchiamo in qualche modo di portare avanti un linguaggio tutto nostro. Considerato che la nuova puntata della nuova stagione, ci sono dei nuovi progetti a cui state lavorando come collettivo? Siamo sempre alla ricerca del nuovo linguaggio e stiamo studiando e mettendo sempre più a fondo il format. Quest'anno potrebbero esserci delle sorprese anche all'interno del format Sgombro, nel senso che vogliamo provare a sperimentare anche delle nuove forme di messa in scena. Non dico nulla. Ok, però insomma qualcosa bolle in pentola. Qualcosa bolle in pentola, assolutamente sì, assolutamente sì. Daniele, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per le informazioni? Assolutamente, allora ribadiamo venerdì 20 alle ore 21:30, torniamo in scena più forti che mai, la nostra pagina Facebook che è il Sgombro, il Varietà, c'è anche la pagina Instagram dove ci sono delle bellissime foto, YouTube, potete trovare anche le locandine di Maurizio Ceccato. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Evviva il lupo! Ciao, ciao, ciao, ciao.